rispondere in questo momento. Lascia un messaggio e ti richiamo appena posso. Battaglie vinte, ma che per me sono glorie. Dai, vieni qua e non mi dire che ti piace mio papà. Cazzo, sono suo figlio, senti, mi ho riempito un foglio. Lo capisci o no che ti voglio, cazzo? Voglio te perché senza Regina non c'è nemmeno un re. Quindi possiamo sedere qui con un long drink. Se preferisci bevi un tè, ci metto un po' di miele. Ma sappi che la luna senza te non la potrei vedere nemmeno da Babele. Canti le preghiere ma per me è un'altra lingua. Già senza di te mi sento chiuso come dentro d'una cinghia. Voglio libertà ma costruisco nella mente la mia gabbia. Sbarre della psiche come chiuso in un castello di sabbia. Non si scappa, no, non si scappa, uomo. Yeah, yeah, I, oh. Faccio la finestra, no amore. Come disse Lorenzo, giorno e notte io ti penso. Cerco di trovare in questa maledetta vita che cosa? Cosa? Un cazzo di senso. Voglio respirare anche per una sola volta quel tuo odore intenso. Profumo come incenso anche se il legnetto è spento. Rifletto? Yo, passa il tempo. Spendo notti insonni, poi di giorno faccio fatica a stare attento. Dammi anche soltanto un momento per mostrarti quel che ho dentro per te. Se tu sei la regina, lasciami essere il tuo re. Cazzo, il tuo re. Il tuo re. Dammi anche soltanto un momento per mostrarti il più nobile sentimento. Se no da sto castello rimarrò in prigione tutto il tempo. Già quello che resta, vivrei la vita come un punk senza la cresta. Un tarro senza fiesto come un uomo senza testa. Cazzo, senza testa. Ya, yeah. Ho perso la testa per te. Amami cazzo. Oh.